140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24, li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Mare culturale urbano, Milano. Cantautore di grande energia e classe, erede di una preziosa tradizione, con Sala Giochi, torna Filippo Graziani. Siamo i millennials noi, no? Ci hanno chiamato così, quelli che stanno a cavallo fra due millenni. Cioè, quindi il fatto di esserci lasciati un millennio alle spalle importante come il 1900, è ovvio che, almeno per me, crea un certo tipo di nostalgia, anche se si parla veramente di poche decine d'anni. Però è che i tempi cambiano talmente velocemente ultimamente che 5 anni fa sembrano 10. Sono un uomo dei miei tempi, insomma, non vivo nel passato, vivo nel presente, e mi piace raccontare il presente con le sue frustrazioni, con le sue paure, le sue rabbie, il suo amore, no? Hai detto amore, ci sono un sacco di canzoni d'amore. Sì. Infatti sono stupito anch'io. Quando ho finito di ascoltarlo, ho detto: cazzo, ho scritto un sacco di canzoni d'amore a sto giro. Ma perché? Probabilmente sono ispirato, perché probabilmente, no, quella parte della mia vita ha preso un senso logico. E quindi non sono più un animale selvatico che vaga nelle riviere romagnole, ma ho imparato la bellezza del rapporto, la bellezza di dedicare la propria esistenza a un'altra persona, quindi ero molto ispirato. Sono qui per te. In cui unisci immagino la tua compagna ovviamente, all'immagine dei tuoi genitori. Sì. È molto bello quello da cui arrivi e quello a cui appartieni. Perché mi piaceva questa idea di abbandono, no, nei confronti del prossimo, perché è sempre un po' un modo di navigare dentro un'altra persona. E per descrivere questa cosa volevo prendere proprio in ballo l'idea di dare tutto quello che posso, tranne le cose che poi fondamentalmente non mi appartengono in maniera, no, atavica. Cioè, io gli occhi sono di mia madre, la bocca è di mio padre, quindi queste due cose non le puoi cambiare, non possono essere nient'altro che queste. Il resto è tutta materia che si può modellare. Te lo chiedo sempre, tu sei una persona che ha un passato e una famiglia da cui arriva molto pesante. A che punto sei dell'elaborazione di questa eredità molto bella, ma anche bella pesante? Io ci sto facendo pace con questa cosa da tanto tempo, quindi mi sento tranquillo. Insomma, poi sto vedendo che anche in questo disco, per esempio, che è solo il secondo, dico solo perché è solo il secondo, però vedo che i giornalisti già mi parlano in maniera diversa rispetto a questa cosa, quindi vuol dire che la mia via verso l'emancipazione è una via che, insomma, che è quella giusta, forse. Non è scontato, no. non è scontato neanche riuscire ad affrontarlo con serenità. Certo, perché comunque a volte ti sembra di abbandonare qualcosa, no? Ti sembra di lasciare... di dimenticarti di qualcosa che poi fondamentalmente è parte di te, però in realtà io non la dimentico, perché fa parte di che cosa sono, no? Una famiglia, ma anche una terra importante che ha vissuto tanti momenti difficili. Sì. Tu nei ringraziamenti parli dell'importanza, sì, dell'appartenere anche a un territorio. Sì, assolutamente. L'Abruzzo per me è un cocoon. Quando ho la possibilità di scendere, quando passo del tempo giù con i miei amici, con le persone alle quali voglio bene che stanno là, per me è sempre un po' un rientrare dentro qualcosa di che mi appartiene atavicamente. Cioè, quindi entro dentro il me stesso ancestrale che camminava su quelle terre molto tempo fa. Quindi mi piace, ho un grosso legame nei confronti della montagna, della natura e cosa meglio dell'Abruzzo? Ti offre tutto questo e anche di più. Quindi sì, tanto, tanto senso d'appartenenza. Qual è il mondo che verrà? Com'è il mondo che verrà? E io spero che sia anche solo minimamente diverso da questo, già mi andrebbe bene. Se fosse anche una virgola già diverso da questo. Insomma, spero che il futuro. Spero che la società inizi a fare pace col futuro. Insomma, il futuro è qualcosa che non è che arriva perché passano gli anni e arriva al futuro. Il futuro è qualcosa che ti devi guadagnare. Devi crederci al futuro, devi volerlo. Quel futuro, no? Altrimenti arriva il futuro che arriva, cioè, e non te lo scegli, non te lo godi, non è cosa che hai scelto te. Il tatuaggio dell'audiocassetta Sì. sul braccio dice molto, è l'audiocassetta quella di quando eravamo bambini noi. Certo, ma io spero che si faccia una ristampa del mio disco in vinile cassetta, perché è una cosa che ho sempre sentito quando ero piccolo, in vinile in cassetta trovate. Sarebbe bello, insomma, speriamo nelle musicassette. Voglio il mio disco in musicassetta. Voglio riavvolgerlo con la penna. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Filippo Graziani. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter, @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.